e denari. Vestite da matriosche. Ti è piaciuta questa, eh? Mi piace, e allora, molto. Apriamo la pagina di denari. Come sai, il giovedì adesso con l'immagine della matriosca non andrò più avanti. Ma insomma, riprendiamo le fila del nostro discorso. Il giovedì è la pagina dei nostri quaderni di scuola. Una scuola in cui sì, settimana dopo settimana impariamo ad investire in formati. Quantomeno ci proviamo. Senza orecchie d'asino, vero? No, assolutamente. La sigletta ci lascia già capire che tipo di argomento affronteremo per iniziare, perché la cronaca ci sta offrendo moltissimi spunti in queste prime settimane di investire in formati. La crisi russa intanto è in primo piano, ci si chiede che cosa occorra fare di fronte ad una situazione che certamente per un piccolo risparmiatore era del tutto inaspettata, magari gli esperti avevano già sentore di quello che poteva accadere, ma certamente un piccolo con un piccolo risparmio viene colto un po' più impreparato. Tra l'altro, accanto alla Russia un occhio è sempre rivolto alla Grecia, dove si è avviato l'iter con anticipo, come noto, per la scelta del nuovo Presidente della Repubblica. I presupposti non sono molto incoraggianti anche da là. L'obiettivo è evitare che le forze dell'estrema sinistra prendano il sopravvento e chiedano la rinegoziazione delle misure di austerità con Bruxelles e magari anche una nuova ristrutturazione del debito sovrano. Insomma, tanti temi, a cui aggiungiamo quanto è accaduto ieri sera negli Stati Uniti con la riunione della Banca Centrale Americana. Ne daremo qualche dettaglio, ma vi voglio presentare il nostro ospite, altrimenti penserà, insomma, sono venute là, parlate voi. Benvenuto. Buongiorno. No, aspetta un attimo perché mi hanno richiamato all'ordine. Investire informati. Giustamente, come non dire, suggelliamo noi la rubrica. Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Insomma, tante notizie da commentare insieme questa mattina, ma soprattutto, lo dicevo in apertura, cerchiamo di dare e di offrire stamattina anche una bussola ai piccoli risparmiatori che, come lei sa, risparmiano sempre con più fatica in Italia, ma tengono duro, devo dire, perché magari si riducono un po' i consumi, ma qualche cosina ancora si riesce ad accantonare. E naturalmente raccontatecelo anche voi se siete di questo avviso. 800 24 00 24. State anche attenti all'analisi che faremo adesso con Lorenzo Alfieri, perché poi nella seconda parte faremo il domandone. E ma io vi suggerirò, no, se vi fidate, no. E se risponderete correttamente apriremo come sempre la nostra libreria. Dottor Alfieri, noi peraltro, anche parlando del tema molto complicato della prima parte che lei ha avuto modo di ascoltare perché era arrivato qualche minuto fa, abbiamo ricordato per un frangente di vita molto delicato per una nostra ascoltatrice il concetto delle montagne russe, che è un po' la situazione che stanno vivendo i mercati nelle ultime settimane. Era attesa una situazione così imponente da Mosca? Poi le leggo anche quello che sta dicendo Putin in questo momento, le leggo solo una frase: vogliono che l'orso stia seduto tranquillamente e mangi il miele, ma tentano di metterlo in catene, di togliergli i denti e gli artigli e impagliarlo, riferendosi naturalmente al suo paese. Che ci dice su questo? Ma sicuramente è ovvio che ci troviamo di fronte in questo frangente in una situazione di maggiore volatilità, maggiore complessità. Io coglierei però l'angolo positivo di questa situazione. I mercati finanziari ci insegnano che ormai è molto difficile investire correttamente, bisogna avere delle prospettive di più lungo termine, bisogna soprattutto, in termini pratici, avere molte informazioni, probabilmente molte più informazioni rispetto al passato. Ed è chiaro che l'investitore singolo, l'investitore privato, quello che viene definito l'uomo della strada, non può avvicinarsi facilmente a tutta questa mole di informazioni. Credo che sia chiaro ed evidente che per investire su mercati così complicati bisogna avere dei riferimenti professionali che ci aiutano a muoversi. Certo, che ci possono aiutare a capire perché in questo momento la Russia, per esempio, è diventata di nuovo un po' l'epicentro della crisi internazionale. È partito tutto dal petrolio, no? In realtà c'è ancora tuttora questa diatriba fra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti, che è caduta proprio a Mosca. Quindi sono anche delle dinamiche internazionali da osservare, non è proprio facile. facile. Assolutamente, infatti la correzione così forte del petrolio, sicuramente abbiamo visto meno 40-45% in pochissimi giorni, è figlia un po' di una volatilità molto alta, della capacità dei capitali di muoversi in entrata e in uscita facilmente, molto più facilmente che in passato, e questo è un ulteriore elemento a favore di quello che dicevo prima. Il singolo investitore è troppo esposto, quindi bisogna evidentemente valutare attentamente il proprio portafoglio, costruirlo ed essere pronti eventualmente a questi momenti di tempesta, ma essere strutturati correttamente. A proposito di questo, noi lo diciamo sempre, ormai anche Nicoletta si è affezionata al concetto della diversificate. E però chi avesse ben diversificato, noi diciamo sempre, non deve avere particolari timori, però in questi giorni è sceso tutto, dottor Alfieri, perché a parte il petrolio, le borse, i rendimenti dei titoli di Stato. Allora, uno per quale motivo piccolo risparmiatore dovrebbe riuscire ad avere il sangue freddo rispetto ad una situazione abbastanza particolare come questa, che forse in realtà si è già anche manifestata? Ci sono stati momenti negativi su tutte le cosiddette asset class, ma quando scende tutto, come si fa ad avere il sangue freddo? Corretta la domanda, direi che in questo momento è un tipico esempio in cui ovviamente tutti i mercati sembrano andare nella stessa direzione, ahimè purtroppo verso il basso. Ma è chiaro, come dicevo prima, se uno ha fatto una corretta costruzione del proprio portafoglio e soprattutto guarda al medio termine e non al brevissimo termine, è evidente che ci possono essere delle fasi di correzione, sono assolutamente auspicabili, ma dall'altra parte la costruzione di un portafoglio molto diversificato consente anche di superare queste fasi di alta volatilità, esatto, in modo molto più tranquillo, che non ovviamente essere, per così dire, dietro al mercato, correre dietro al mercato, e purtroppo più delle volte sbagliando si incorrono in profonde perdite anche se uno ha ovviamente investito in pochi giorni. Certo. Quindi guardiamo a lungo termine, proprio perché, come dicevo prima, essendo ormai il mercato molto difficile, può essere governato solo ovviamente attraverso una visione più ampia. E poi diciamo che è anche giusto programmare i propri investimenti solo in questo modo, la propria cosiddetta pianificazione finanziaria significa non essere legati al brevissimo periodo, ma guardare con prospettive di lungo termine proprio anche le proprie esigenze finanziarie. Allora, il tema della volatilità è pure molto interessante. Nella seconda parte faremo un punto sugli strumenti di investimento adeguati per proteggere il risparmio quando questo oscilla moltissimo. Mi viene in mente anche, dottor Alfieri, che l'analisi della questione russa ci fa ricordare che la R di Russia è contenuta nell'acronimo BRIC, quella sigla inventata da Goldman Sachs qualche anno fa, che indicava il gruppo delle economie emergenti più promettenti. Insieme alla Russia c'erano anche altri paesi, il Brasile, la Cina ed India, e tutti sono un po' sotto la lente di ingrandimento in questo momento. Un primo flash che poi approfondiremo dopo il giornale radio. Ma sì, è molto interessante quello che sta avvenendo in questo momento, perché in effetti è vero che sembrano essere tutti sotto la lente, ma poi se andiamo a ben vedere ci sono dei paesi cosiddetti perdenti, tra cui ad esempio la Russia in primis, ma anche il Brasile, ed alcuni paesi vincenti. In questo momento sembrano emergere meglio da questa fase l'India e la Cina. I paesi emergenti non possono essere più definiti emergenti in quanto tali. Ogni paese ha una sua caratterizzazione, una sua storia e una sua vicenda. Cuore e denari. E torniamo insieme a Cuore e Denari e con questo terzo appuntamento di Investire Informati. Oggi sto portando Nicoletta Carbone e anche tutti gli ascoltatori un po' in giro per il mondo. Esatto. Non è però un viaggio di piacere, no, un po' perché, gioia e dolore. Esatto, dai. Perché stiamo affrontando la situazione greca, la Russia, le economie emergenti, le economie molto volatili peraltro. Risentiamo la nostra sigla e ripartiamo con il nostro viaggio. Attenzione, perché tra un po' arriva anche il domandone. Investire informati. E con noi c'è sempre Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, e naturalmente anche le domande degli ascoltatori che sono già arrivate all'800240024. Stiamo cercando di decifrare per quanto possibile la cronaca finanziaria di questi giorni, perché i risparmiatori attenti e diversificati sui mercati internazionali si saranno certamente allarmati. I cali delle borse sono stati molto accentuati, oggi stanno recuperando qualcosa, anche se Dottor Alfieri, alcuni listini erano sui massimi e forse era anche tempo che arrivasse qualche notizia che provocasse questa correzione su alcuni indici. Ma sì, in effetti dobbiamo dire che i mercati azionari, alcuni hanno, per così dire, corso molto, sono saliti molto. Ciononostante, non ci dimentichiamo che proprio i paesi dove le borse hanno fatto meglio, ad esempio negli Stati Uniti, le prospettive per il 2015 rimangono particolarmente interessanti. Il gigante americano dovrebbe avere nel 2015 una crescita molto solida, intorno al 3%, ahimè molto lontano da quella che è prevedibile in Europa e soprattutto in Italia, e soprattutto le aziende americane continueranno a produrre utili e quindi a crescere. Stavo prima introducendo la questione della volatilità, no? Perché in questi giorni gli appassionati di cronaca finanziaria hanno approfondito le dinamiche del VIX, che è proprio l'indice, abbiamo un concetto nuovo oggi, Nicoletta, l'indice che misura la volatilità dei mercati, e in questi giorni sembra proprio un frullatore, perché questo indicatore ha una percentuale elevatissima. Allora, due domande per lei, dottor Alfieri: è da temere la volatilità, o momenti di volatilità così accentuata possono essere anche delle occasioni di investimento? E se sì, esistono degli strumenti di investimento adeguati per farlo? No, ecco, io vorrei ricordare a tutti che la volatilità a settembre era ai minimi storici, molto molto inferiore rispetto a quella che è la media storica, cioè una media che viene calcolata su un arco temporale molto lungo, 10-15 anni. Quello che sta avvenendo in questi giorni è un riavvicinarsi a una volatilità più consona ai mercati finanziari. Rispondo quindi alla sua domanda: i mercati finanziari per loro natura saranno sempre volatili, anche più volatili di quello di questi giorni. Quindi evidentemente i prodotti giusti, secondo me, rimane sicuramente uno dei prodotti più interessanti il fondo di investimento, cioè il fondo che viene gestito da operatori professionali che sanno come muoversi anche nei mercati più difficili, più complicati, ma soprattutto, vi ricordo, hanno le informazioni migliori, le informazioni più immediate, che consentono evidentemente di porsi al riparo da momenti di volatilità imprevista. Senta, sempre per far capire questo concetto ai nostri ascoltatori, quando è che una borsa è molto volatile? Che cosa deve fare per farsi apostrofare proprio come un indice molto volatile? Deve fare che tipo di performance quotidiana? Ma direi, prenderei ad esempio anche la borsa italiana dei giorni scorsi, dove abbiamo visto che all'interno di una stessa giornata il listino italiano era più 1% la mattina, meno 2 il pomeriggio, meno per più 1 più 3 magari. Più 3. Ecco, questo significa che evidentemente ci troviamo di fronte a una situazione dove gli investitori sono molto incerti su cosa fare, compro o vendo. Questo ovviamente può valere sia per le borse, ma anche per il singolo titolo, può valere per le valute, può valere anche per il petrolio. La volatilità significa evidentemente i prezzi non trovano un loro trend. Potrebbe essere un trend in salita, potrebbe essere un trend in discesa, ma in questo caso è un trend sclerotico. Ecco, infatti non poteva dirlo meglio. Sclerotico. Infatti. Allora, due ascoltatori adesso pronti ad intervenire. Volevo solo segnalare che un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666 puntualizza che la crisi russa ovviamente non nasce per la diatriba fra Stati Uniti e Arabia Saudita sul prezzo del petrolio e lo shale gas. Nasce prima perché ci sono state le sanzioni occidentali alla Russia per la crisi in Ucraina, quindi prendiamo ovviamente atto della specifica che ci ha fatto l'ascoltatore. Chiaramente queste ultime vicende, la guerra sul prezzo del petrolio, ha accelerato notevolmente la crisi russa, perché ne esporta in quantità considerevoli, direi, e quindi il prezzo è una variabile interessante per il suo business internazionale. Dove vuoi andare? Io vorrei andare a Firenze. Sì. C'è Roberto. Bene. Ma devo dare prima la parola a Paolo perché ha chiamato prima di Roberto. Sì? Ah sì, perfetto. Paolo, benvenuto. Paolo, ci sente? Sì. Sì, vi sento. Mi sentite, vero? Sì. Perfetto, sì. Vada. Vorrei chiedere all'esperto una piccola analisi sulla situazione venezuelana, avendo dei titoli, diciamo, delle obbligazioni venezuelane in portafoglio, un piccolo quantitativo. Ecco, vorrei chiedere se mi può fare una piccola analisi. Un'analisi, perfetto. Comprendo bene che è una situazione particolare sia a livello politico che economico per quello Stato. Ecco, vorrei una sua visione. Grazie Paolo. Devo dire che gli ascoltatori mi sorprendono sempre. C'è chi ha le obbligazioni greche, magari proprio comprate negli ultimi tempi con la speranza di portare a casa come dire, un guadagno interessante in tempi brevi, l'obbligazione venezuelana, poi sentiremo anche Roberto che ha anche un altro pacchetto di titoli interessanti. Devo dire che le tentazioni di andare in questo modo sui mercati internazionali è sempre forti. Molto frequente, Alfieri. Sì, diciamo, parliamo del Venezuela, parliamo ovviamente di un paese molto legato, ahimè, per loro, al petrolio. Le vicende economiche venezuelane chiaramente indicano che questo paese non ha altre opportunità di crescita se non quello di esportare il più possibile, ovviamente, petrolio. È ovvio che in questa fase è diciamo uno di quei paesi che soffrirà maggiormente. Abbiamo previsioni di crescita in ribasso per Venezuela, per cui all'ascoltatore dico ovviamente che è un investimento, per così dire, problematico, da seguire molto molto attentamente, perché questo tipo di investimento si presta molto ad alta volatilità. Allora, è tempo adesso, prima di sentire Roberto però, di fare il domandone ai nostri ascoltatori. Domandone. Andiamo. Lorenzo Alfieri ha preparato la domanda per i nostri ascoltatori. E allora, prima abbiamo spiegato un tema molto interessante nell'inizio, nella prima parte della trasmissione, e così magari poteva essere interessante interpellarli proprio su questo concetto che qualche anno fa andava molto di moda, poi ha perso un po' smalto a beneficio di un altro gruppo di paesi. Insomma, non voglio svelare oltre. Che cosa ci dice? Ci faccia lei la domanda agli ascoltatori. Sì, direi, ci riuscite a dare il giusto significato dell'acronimo BRICS? Di cui abbiamo parlato oggi. Quali sono i cinque paesi che si nascondono dietro questo acronimo? Uno l'avete detto già. Noi ne abbiamo detti quattro, perché diciamo inizialmente l'acronimo era BRIC, poi ad un certo punto si è aggiunta anche la S, e quindi vediamo se gli ascoltatori hanno seguito in questi anni anche questa l'evoluzione della sigla, diciamo, per ricordare, vediamo se ricordano che cosa, poi quale grande area macroeconomica si è aggiunta a questo acronimo. 800 24 00 24. Bene. Candidatevi. Esatto. Potete anche scriverci se volete l'SMS. Andiamo Roberto, adesso a Roberto buongiorno. Da Firenze. Roberto? Sì, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Sì, allora senta, io la domanda che volevo rivolgere parte da qui. Io detengo in portafoglio due obbligazioni della Banca Europea degli Investimenti, e sono due obbligazioni espresse con valuta in rublo russo. E diciamo, sto andando incontro a delle perdite consistenti. Immaginiamo. Ovviamente. Allora, su una la scadenza è dicembre 2015, su un'altra è giugno 2017. Ecco, volevo chiedere soprattutto sulla scadenza giugno 2017, considerando che in Russia ci saranno nel 2018 i mondiali di calcio. Ma quante ne sa Roberto? Incredibile. Volevo sapere, ecco, in prospettiva, ovviamente, ecco, su quella scadenza 2015 non mi rimane che tenerla fino alla scadenza. Avere un po' di pazienza, dice lei, ormai se la porta a termine a scadenza. Esatto, su quella del 2017, ecco, io ho questa incognita e questo interrogativo, ecco, che mi pongo, e di riflesso la domanda che vorrei fare, ecco, a voi. Aggiungo una cosa io, Roberto, per far fare un ragionamento completo a Lorenzo Alfieri. Mi auguro che sia una fettina contenuta del suo portafoglio questo, allora, investimento in obbligazioni russe. Sono investimenti che complessivamente erano inizialmente sui 10.000 euro, adesso il controvalore siamo sui 5.500. Eh sì, perché proprio secche, hanno perso almeno 50%. Sì, assolutamente. Grazie Roberto. Allora, però ha detto una cosa interessante Roberto, dottor Alfieri, comunque ha sottoscritto un'obbligazione della BEI, quindi un organismo sovranazionale, la Banca Europea degli Investimenti. In qualche maniera questo aspetto protegge un po' di più l'investimento di Roberto, o non ha nessun significato? No, è corretto dire che sotto il profilo dell'emittente siamo completamente coperti, perché ovviamente l'emittente è di assoluto valore. È chiaro che il rischio qua è solamente il rischio valutario, e quindi ci dobbiamo preparare a dare una visione eventualmente dei prossimi due anni sulla Russia. Il quadro onestamente in questo momento è molto opaco, come possiamo dire. Cosa significa? La visibilità da qua a due anni sulle dinamiche che riguardano la Russia sono molto difficili da vedere. Non ci dimentichiamo che per esempio in questo momento la Russia vede la possibilità di una crescita negativa il prossimo anno, addirittura ovviamente il rublo inevitabilmente sarà legato in parte al recupero potenziale o meno del petrolio, ma visto come si è andato strutturando un po' il quadro, possiamo dire che probabilmente in questo momento il petrolio rimarrà basso per almeno 2-3 anni. Quindi, rispondendo all'investitore, devo dire che si deve preparare a un periodo ovviamente di alta volatilità sul rublo, probabilmente ulteriori svalutazioni sono abbastanza difficili, almeno in termini così importanti come abbiamo visto nelle settimane scorse. È chiaro che lo scenario di rivalutazione del rublo nel breve termine è abbastanza difficile. Ciò nonostante, ricordo, per quanto riguarda l'emittente, direi che i rischi sono assolutamente esclusi. Allora, poi tra l'altro, crollo del rublo, iniziative per arginare anche questa dirompente discesa della valuta russa, la banca centrale russa che è intervenuta con questo aumento incredibile dei tassi di interesse nel giro di 2 ore, li ha portati dal 10% al 17%, noi qua li abbiamo a zero in Europa, li terremo a questo livello ancora a lungo. Ieri sera invece la banca centrale americana ha detto che come dire, sarà paziente nel tornare ad aumentare i tassi di interesse americani, pur avendo ormai anche le condizioni per poterlo fare, no? Gli Stati Uniti hanno questo buon presupposto economico in questo momento, ma comunque un pochino sono preoccupati di questo scenario internazionale nuovo che si è manifestato negli ultimi giorni. Che cosa significa questo atteggiamento della Banca Centrale Americana? Ma lo scenario che ovviamente viene visto dalla parte della Banca Centrale Americana è quello di prendere tempo. Fondamentalmente l'inflazione, con questo forte ribasso del petrolio anche negli Stati Uniti, è assolutamente sotto controllo, quindi non ci sono pressioni inflazionistiche che fanno correre al rialzo dei tassi. È chiaro che giustamente dal loro punto di vista, inoltre, questa crisi russa potrebbe in qualche modo magari creare qualche ulteriore compulsione ai mercati finanziari, per cui agisce con molta tranquillità. Ma non ci dimentichiamo una cosa: gli Stati Uniti stanno crescendo al 3%, hanno una domanda interna al consumo molto forte che beneficerà ulteriormente del crollo del petrolio. Quindi gli Stati Uniti, secondo il nostro punto di vista, prenderanno una decisione al rialzo dei tassi nella prossima, probabilmente nel primo semestre del 2015, ma non hanno fretta ovviamente. Questo serve anche per tranquillizzare i mercati finanziari, che avevano sul tavolo come uno degli elementi, direi, di maggiore apprensione il rientro della Fed nel rialzo dei tassi. Certo. Questo è un elemento che ovviamente ai mercati dà un po' fastidio. Allora, molti ascoltatori ci stanno intanto chiedendo, si stanno candidando alla risposta al nostro quizzettone. Del quizzettone, adesso sentiremo appunto la risposta di un ascoltatore, vedremo se è corretta o meno. Volevo chiedere un'altra cosa a Lorenzo Alfieri, chiaramente un po' con il prezzo del petrolio su questi livelli, molti ascoltatori che hanno investito sui titoli energetici hanno visto le dirette conseguenze di questo andamento, molti ascoltatori esposti sui titoli del settore bancario, che pure ancora dobbiamo monitorare. In Europa si va completando l'unione bancaria, ma insomma ci sono anche qua montagne russe di tipo diverso. C'è un buon settore, dottor Alfieri? È molto difficile sempre dare, no? Suggerimenti diretti, ma qualche settore che magari è un po' scollegato dalle dinamiche che abbiamo commentato fino a questo momento e che magari potrebbe essere un pochino un porto sicuro per quel risparmiatore che questi rischi proprio non se li vuole prendere? Rispondo a questa domanda, però faccio una premessa. Certo. Noi assolutamente pensiamo che sia opportuno, quando si investe nell'azionario, fare un'attenta e importante diversificazione di portafoglio. Per esempio, noi in questo momento non abbiamo un'area regionale di preferenza, investiamo un po' negli Stati Uniti, un po' in Europa, anche nei mercati emergenti, guardando le aziende. Ma per rispondere alla sua domanda, ci sono due settori che in questo momento sono un po' più al riparo. Uno, i ciclici. Le economie, che anche magari può sembrare strano, ma le economie più importanti stanno crescendo. stanno riprendendo i consumi, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, e quindi ci sono aziende, soprattutto le cosiddette multinazionali che operano su tutti i mercati, che beneficeranno di questa crescita complessiva dei consumi legata poi a questa svalutazione, a questa correzione, certo, del petrolio. Faccio un esempio, ma non prendetelo come un suggerimento. Esatto, la Nestlé della situazione mi viene in mente, potrebbe essere un esempio. Assolutamente, ecco, questa è un'industria diversificata. Aziende paragonabili a questa. E poi un secondo settore, il tecnologico, che è pure cresciuto tanto, ma ricordo solo che i tecnologici sono scollegati dall'andamento del petrolio storicamente, quindi non hanno nessun effetto. Con questo non sto dicendo che bisogna comprare solo ciclici o solo tecnologici, ma volendo individuare due segmenti, due settori che in questo momento sono, per così dire, più al riparo da questa alta volatilità, ecco, questi sono due settori. Nella corsa di ieri dei russi ai supermercati, ai centri commerciali per accaparrarsi quanto più possibile, per evitare che i prezzi salissero in maniera veloce, appunto come sta accadendo di ora in ora, pare che Apple abbia ad un certo punto deciso di non vendere più i suoi iPad, appunto. Sì, vuole... No, per il prezzo, giustamente, esatto, perché il prezzo non era più allineato. Roberto, allora, brava, sì, andiamo a proposito di tempo. Roberto. Buongiorno, grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie. Roberto, cosa c'è dentro la sigla BRICS? Va bene, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Però BRICS vuol dire anche, bravissima Rosciani, insostituibile carbone, stupende, ci manda un ascoltatore. Roberto, così allora, doveva rispondere. Allora, l'ascoltatore ha scritto 10 libri e Roberto gliene mandiamo due. Metà. Roberto, naturalmente, grazie, grazie, molte complimenti. Grazie, grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie, molto sintetica, ma speriamo di aver dato insomma delle chiavi di lettura utili per i nostri ascoltatori che guardano ai mercati con interesse, anche con un pochino di apprensione, ma io spero che ci sia più interesse, perché poi alla fine sono anche degli scenari interessanti. Noi con Investire Informati ritorneremo a questo punto a gennaio 2015, presto ci ritornerà a trovare anche lei. Grazie mille per l'invito. Grazie, buone vacanze. Buone vacanze, auguri. E noi torniamo domani e venerdì, vero? Domani e venerdì. Sai che io mi confondo sempre. Venerdì, forse sulle piste. Ma certo, a domani.